prende il via a Costellazioni Giovani Connessioni Creative. Io sono qui per parlarne con Leonardo Punginelli, responsabile GAER Giovani Artisti Emilia Romagna. Buongiorno Leonardo e benvenuti ai microfoni di Radio Città Fujiko. Buongiorno a voi e grazie per l'invito. Si svolgerà da maggio fino a primavera 2024 con tantissimi percorsi multidisciplinari e toccando anche tante parti del territorio dell'Emilia Romagna, appunto questo progetto. Ti volevo chiedere come nasce e quali sono le sue caratteristiche fondamentali. Allora, grazie. Nasce da un modello che in Emilia Romagna abbiamo e che ci tengo a dire è unico in Italia, vale a dire una rete di tutti quanti i comuni capoluogo di provincia che da diversi anni lavorano sulla creatività giovanile. Hanno fatto una rete, un'associazione, appunto l'associazione GAER, e abbiamo costruito un progetto che cerca di valorizzare in tutti i territori della regione e per tutti gli artisti della regione tutti i linguaggi artistici, dalla musica al teatro, alle arti visive, cercando un po' di costruire dei percorsi che possano anche favorire l'incontro fra passione artistica e mercato del lavoro. Volevo proprio chiedere quali sono i vantaggi anche di fare questo tipo di networking, questa unione anche fra più realtà del territorio, appunto come ci spiegavi. I vantaggi sono che l'Emilia-Romagna è una regione molto compatta con città di medie e piccole dimensioni e progetti di rete, progetti che riguardano tutto il territorio, hanno ovviamente un impatto e una capacità di relazionarsi con il mercato culturale ben maggiore di quelli che possono essere piccoli progetti fatti nelle diverse città. Un progetto come quello che abbiamo attivato appunto Costellazione è un progetto che si propone di parlare a tutto quello che è il territorio regionale e a quello che è il mercato della cultura dell'arte a livello regionale, in questo la rete è molto importante. Quali sono le città poi coinvolte, appunto le tappe di questo territorio? Ecco. Noi partiremo, abbiamo un progetto che si svolge in un anno, partiamo con 5 tappe e con 5 città che sono Bologna, Ravenna, Cesena, Reggio Emilia e Parma dalla primavera del 2023 fino all'autunno del 2023. Le altre 5 città, vale a dire Ferrara, Forlì, Rimini, Piacenza e Modena, seguiranno con altre 5 tappe fra l'autunno del 2023 e la primavera del 2024. La prima tappa sarà appunto qua a Bologna, o meglio doveva essere qua a Bologna il 26 maggio, ma insomma l'Emilia Romagna in questo momento sta attraversando una grande criticità, un momento appunto particolare, difficile, quindi la data diciamo che è slittata. Come proseguirà il progetto? So che ancora non avete una data definitiva, però insomma quali saranno gli appuntamenti, ecco? Per Bologna appunto doveva essere il 26, con la tragica situazione, una situazione difficile, i colleghi del Comune di Bologna hanno pensato in accordo con l'associazione appunto di rinviarla, siamo in attesa di capire quando potrà essere ricalendarizzata questa iniziativa. Seguirà la tappa a Parma, che è una tappa che si propone di dialogare sui temi appunto della musica d'autore italiana e quindi sarà un workshop sulla canzone d'autore con cantautori italiani, in questo momento non possiamo ancora dirvi noi, ma che sarà uno molto grosso, poi ci sarà una tappa sul suo spettacolo a Cesena nel mese di giugno e poi fra settembre e ottobre le ultime 2 tappe, che sono 2 tappe a Ravenna con residenze sul tema del mosaico contemporaneo, che anche questo è un linguaggio molto interessante, e a Reggio Emilia invece con un percorso legato alla street art, che è una forma di espressione artistica molto presente fra i giovani oggi. Possiamo dare anche dei contatti con il quale rimanere appunto collegati agli eventi anche per scoprire quando sarà la prima data? Posso darvi prima di tutto il riferimento dell'ufficio stampa dell'associazione, o meglio del progetto, che è press@gaer.it. Tutte le informazioni diciamo vengono trovate andando sul sito Giovani della Regione Emilia Romagna, GiovaZoom, dove c'è proprio una pagina sulla creatività, che è la pagina gestita dall'associazione GAER, in cui si trova un aggiornamento costante di tutti gli appuntamenti. Perfetto, grazie mille Leonardo per avercene parlato e in bocca al lupo per questo grandissimo progetto. Grazie a voi.